È indiscutibile che il messaggio del Vangelo sia l'annuncio della pace e della riconciliazione sia fra l'uomo e Dio, sia fra uomo e uomo. Eppure per coloro che hanno posto fede in Gesù, quale Salvatore Signore, vi è anche un messaggio che invita alla separazione, al punto che si può affermare che non vi è reale comunione se non vi è una reale separazione. Mentre tutti i credenti, e non, sono a conoscenza del messaggio di riconciliazione, pochi conoscono la necessità di separarsi. E da chi? Perciò è più che opportuno prendere in esame 7 ordini di Dio di separarsi, o comunque di non aver comunione. Per un figlio di Dio la prima separazione sarà con chi è incredulo, poi con chi, chiamandosi fratello, non si comporta rettamente. Inoltre il credente deve separarsi dai disordinati, da chi solleva divisioni, dai falsi dottori, dai settari e da chi non ascolta riprensioni. Prendiamo in considerazione in modo particolareggiato ogni aspetto. Separarsi dagli increduli, 2 Corinzi 6, 14, 7, 1. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione ci è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione ci è tra la luce e le tenebre? E quale armonia ci è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo ci è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. E sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo, ed io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Spesso il pericolo più grande per un figlio di Dio è costituito dal desiderio di essere uguale agli increduli. Questo desiderio non nasce solo da chi non ama sufficientemente Dio, ma anche dai credenti pieni di ardore. I credenti di Corinto erano noti per il loro amore per Cristo, per il loro zelo. Ma nonostante tutto, contraevano relazioni sbagliate. Anche oggi è frequente che chi ha posto fede in Gesù contragga un matrimonio con l'incredulo o si metta in affari con lui. Apparentemente non vi è nulla di sbagliato nello sposarsi e essere soci con gli increduli, ma simili relazioni non sono approvate da Dio. La prima separazione di un figlio di Dio consiste proprio nel non essere coinvolto di sua volontà con l'incredulo, per avere un cammino santo, cioè conforme al volere di Dio. Dunque nessuna relazione permanente con l'incredulo. Chi ha dimestichezza con l'Antico Testamento sa che questo principio del cristianesimo non è una novità, perché nelle sue leggi l'Eterno aveva dato l'ordine di non mettere sotto allo stesso giogo un bue e un asino. Forse l'Eterno si interessava degli animali. Può anche darsi, perché ha dato anche delle leggi a suo favore, Esodo 23:12, ma dando queste leggi, l'Eterno voleva soprattutto insegnare qualcosa di molto più importante, e cioè che il figlio di Dio non deve avere nessun legame con chi non ha la stessa natura divina, cioè con colui che non è nato di nuovo. Chi ha posto fede in Cristo deve mantenere integro tutto il suo essere, anima, corpo e spirito. Contrarre matrimonio con chi non ha lo Spirito Santo invece equivale a contaminare tutto il suo essere. Così è avere relazioni stabili con l'incredulo negli affari. Non si avranno relazioni simile al matrimonio, ma sarà impossibile avere un pari consentimento per quanto riguarda l'onestà e la sincerità. Il fratellastro di Gesù, Giacomo, ha scritto espressamente queste parole. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è in inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Giacomo 4:4. Sono parole forti, perché Giacomo chiama adulteri dei credenti. Ma se l'adulterio è essere infedeli al proprio partner, con quale nome si possono chiamare coloro che hanno dato la loro vita a Cristo, hanno promesso di metterlo al primo posto e poi contraggono relazioni durature con chi nega la sovranità di Cristo. L'amicizia con il mondo, cioè pensare e comportarsi come gli increduli, è pienamente disapprovata da Dio. La scelta dunque è inevitabile. O non si allacciano relazioni durature di affari e di cuore con gli increduli, oppure si diventa nemici di Dio anche se si è credenti. La separazione dagli increduli per il credente in Cristo diventa allora indispensabile. Se nonostante l'ordine di Dio il credente rimane indifferente, allora egli deve mettere in seria considerazione il fatto che abbia consacrato la sua vita a Gesù Cristo. Come dice Giacomo, la religione di quel tale è vana. Separarsi dai falsi fratelli, meno 1 Corinzi 5, 9 e 13. Vi ho scritto nella mia lettera di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori. Non giudicate voi quelli di dentro, ora è Dio che giudica quelli di fuori. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi. Persone che si dichiarano credenti in Cristo ce ne sono sempre state, ma un figlio di Dio deve essere accorto e verificare la fondatezza di una confessione di fede. Con questo non significa che un credente debba essere il censore di Dio, che debba esprimere del continuo dei giudizi in merito a chi appartiene a Cristo oppure no, perché solo Dio conosce i cuori. Cosa fare allora per riconoscere chi ha veramente posto fede in Cristo? La parola di Dio non lascia dubbi. Osservare il loro comportamento. Paolo ordina ai credenti di Corinto di separarsi, cioè di non avere comunione o rapporti di continuità con coloro che si fanno chiamare fratelli, ma che ostentano un comportamento contrario alla volontà di Dio. Una persona che è idolatra, cioè prega per i morti, si inginocchia, e perciò venera o adora immagini fuse quali Maria e Santi, non deve far parte dei compagni abitudinari della vita di un figlio di Dio. Colui che è avido di denaro, che disprezza tutto e tutti, chi è schiavo dell'alcol e chi non ha una disposizione a donare, non deve essere ritenuto un compagno o un amico da un cristiano. Con queste persone, aggiunge l'apostolo Paolo, un figlio di Dio non doveva neppure partecipare al pasto comune, che per alcuni è rappresentato dalla cena del Signore, mentre per altri dalla mancata comunione. Da questo brano della scrittura è evidente come ai primi cristiani non andasse bene ogni forma di comunione come è di moda oggi, ma erano molto scrupolosi nello scegliersi le amicizie, perché, come scrive in seguito Paolo, cattive compagnie corrompono buoni costumi. O, se vogliamo un detto più moderno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Essere accorti è una qualità che non tutti i figli di Dio hanno. Separasi dai disordinati, 2 Tessalonicesi 3, 6, 15. Ora, fratelli, vi ordiniamo nel nome del Signor nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello, che cammini disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Voi stessi, infatti, sapete in qual modo dovete imitarci, perché non ci siamo comportati disordinatamente fra di voi. E non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio, giorno e notte, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non già che non ne avessimo il diritto, ma per darvi noi stessi un esempio affinché ci imitaste. Infatti, anche quando eravamo tra di voi, vi ordinavamo questo: se qualcuno non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non facendo nulla, ma occupandosi di cose vane. Ora tali ordiniamo e li esortiamo nel Signor nostro Gesù Cristo che mangino il loro pane, lavorando quietamente. Ma quanto a voi, fratelli, non vi stancate nel fare il bene, E se qualcuno non ubbidisce a quanto diciamo in questa lettera, notate quel tale e non vi associate a lui, affinché si vergogni. Non tenetelo però come un nemico, ma ammonitelo come fratello. L'ordine di Paolo di separarsi dai disordinati sembra un poco eccessivo, ma la severità con la quale parla Paolo non è infondata. L'indisciplinato aveva creato all'interno della comunità un turbamento e una offesa. L'offesa era la pigrizia, l'oziare deliberato che portava alcuni ad interferire nel lavoro degli altri e pretendere che gli altri provvedessero alle loro necessità. Un tale comportamento era in diretta disobbedienza all'insegnamento degli apostoli e al modo nel quale gli apostoli avevano vissuto, perché avevano lavorato a lungo e con fatica per non essere finanziariamente di peso a nessuno. Perciò l'atteggiamento più amorevole da tenere verso dei fannulloni era lasciarli morire di fame in modo che fossero costretti ad agire in modo giusto e andassero a lavorare. Essere pietosi ed amorevoli non significa essere dei sprovveduti, e aiutare indiscriminatamente il prossimo non è giusto. Nessuno, e specialmente un credente che è capace di lavorare e non ne ha voglia, dovrebbe essere mantenuto dagli altri che lavorano al posto suo. Da queste persone disordinate e pigre occorre starsene lontani, senza però tagliare i ponti del tutto. Separarsi dai falsi dottori Romani 16:17-18. Or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghevole parlare seducono i cuori dei semplici. L'apostolo Paolo scrisse una lettera ai credenti di Roma perché conoscessero il messaggio dell'Evangelo. In effetti, nella lettera ai Romani, Paolo presenta le verità basilari del messaggio di Dio, e cioè che tutti gli uomini sono perduti dalla nascita, che possono essere giustificati mediante un atto di fede, e che sono chiamati ad avere un cammino santo, cioè appartato per Dio. L'apostolo Paolo parla anche di dottrina, una parola questa poco conosciuta e amata. Anche oggi, come ieri, si desidera vivere dove ci porta il cuore, si cercano movimenti all'interno dei quali si fa leva sui nostri sentimenti, si cerca sempre più ciò che accomuna senza guardare ciò che divide. Si ama tanto la pace che spesso la si cerca a discapito della verità. Si parla di comunione, ma non di dottrine. Eppure spesso gli apostoli hanno detto ai discepoli di Cristo di prendere in esame il credo di coloro che volevano unirsi a loro, e questo non per fanatismo, ma per amore della verità. Gesù aveva la sua dottrina, e lo specificò quando disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato». Giovanni 7:16, Matteo 7:28, dottrina diversa dagli scribi e farisei, Matteo 16:12. Gli apostoli insegnavano una dottrina, Atti 17:19, ed erano gelosi del loro insegnamento al punto da dire: «Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti». 1 Timoteo 6:3-4. E ancora: «Chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo». 2 Giovanni 1:9. Come è possibile, dopo queste testimonianze, sottovalutare le dottrine degli uomini? Desiderare la pace a tutti i costi e la comunione delle religioni può scaturire da un cuore anche non malvagio, ma chi ha tale desiderio commette comunque un errore imperdonabile. Dobbiamo ricordare che nella vita non è sufficiente avere delle buone intenzioni, perché con delle buone intenzioni si sono commessi e si commettono i più grandi crimini. Il voler di Dio è che i suoi figli siano prima di tutti santi, cioè abbiano un cammino appartato per compiere la volontà di Dio. Perciò essere figli di Dio comporta, tra le tante cose, la necessità di separarsi da chi insegna una dottrina diversa da quella di Cristo. L'apostolo Paolo avvertì i credenti con le seguenti parole: «Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. 2 Timoteo 4, 3. Mi chiedo, è già forse arrivato questo tempo? Separarsi dai settari Tito 3, 8, 11. Sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Ma evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese e le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Evita l'uomo settario, dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca, condannandosi da se stesso. Per un cristiano professare la propria fede è inevitabile, come sono inevitabili anche le discussioni. Perché il messaggio di Cristo quale Dio Signore e Salvatore provoca negli increduli una dura reazione intellettuale. Pur di non accettare di essere perduti, gli uomini avanzano tante ragioni, spesso irrazionali, e per questo il credente a volte si trova a dover entrare in discussioni sterili. Secondo il volere di Dio, il credente deve evitare discussioni che non portano a nulla di buono, anche se in noi è radicato il piacere della discussione per amore della discussione. Inoltre, chi ha il timore di Dio deve evitare l'uomo settario. Il settario è colui che è intransigente nel professare le proprie convinzioni e chi ha un accanito spirito di parte. Il settario non è solo colui che è convinto, perché tutti abbiamo le nostre convinzioni, ma è anche chi esprime le proprie idee senza avere ombra di dubbio di poter avere in parte torto. Avere ragione non è un male, ma è molto pericoloso. Pretendere di averne, perché non si ha la possibilità di vedere la propria parte di torto. E cosa dire allora del cristiano che predica un messaggio radicale, il messaggio di Gesù Cristo, quale Dio è? Forse negoziabile? No. Il cristiano non predica perché ha ragione, predica perché Gesù Cristo ha detto di essere la verità. Il cristiano testimonia, non cerca di convincere perché è convinto, anche se la convinzione fa parte della fede. Chi ha ricevuto Cristo come la verità si limita a testimoniare in chi ha creduto, sostenendo che i suoi dubbi razionali vengono risolti da Dio che si è rivelato in Cristo Gesù. Mentre il settario è forte delle sue convinzioni, chi ha posto fede in Gesù ha trovato in Lui la sapienza e le certezze della vita. Separarsi dai fratelli recidivi, Matteo 18, 15-17. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Quando un fratello non ascolta una Chiesa, non ci sono tante cose da fare. Bisogna considerarlo come si considerano gli increduli. Non si mancherà di rispetto, ma non si potrà avere con lui un rapporto fraterno come gli altri credenti. Una tale regola applicata con amore porta i suoi frutti, perché non si può amare Dio senza separarsi da ciò che lui rifiuta. Questo aspetto di separazione è molto difficile, perché quando si sono instaurati dei rapporti di amicizia e di affetto è molto difficile ritenere il proprio fratello in fede come un estraneo. Estraneità, è bene ancora sottolinearlo, non è riferita tanto ai rapporti umani, perché alcuni credenti passano da una totale comunione a una totale separazione, ma è dovuta ad un cammino di fede diverso. Per alcuni forse sarà difficile accettare queste regole, ma come sta scritto nella seconda lettera a Timoteo, non dobbiamo mai dimenticare che, tuttavia, il saldo fondamento di Dio rimane fermo. Avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo, 2 Timoteo 2,19. Ritirarsi da ciò che è sbagliato non è fanatismo, ma fa parte del comportamento di chi ama Gesù Cristo. Quando Gesù disse, se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo, Luca 14, 26, voleva proprio specificare che non è possibile amarlo e eseguirlo se gli affetti terreni più importanti, quali il coniuge e i propri genitori, non vengono al secondo posto dopo Cristo. Vi sono separazioni evidenti, cioè quella con l'incredulo, quella con chi chiamandosi fratello non si comporta rettamente, quella di separarsi dai disordinati, da chi solleva divisioni, dai falsi dottori, dai settari e da chi non ascolta riprensioni. Ma vi è anche quella separazione nascosta di accettare una mancanza di intimi rapporti all'interno del matrimonio e con i familiari per amore di Cristo. E forse questa è la separazione più dolorosa e difficile, ma è altrettanto retribuita. Questione di fede, nient'altro che fede messa in pratica. Aprile 2005. Ellero.